Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Il secondo figliuolo di Teresa, un altro maschio, nacque un anno dopo il primo, tanto che tutti dicevano agli sposi: «Si vede che non perdete tempo!» Se al primo parto la duchessa non aveva sofferto, di quest'altro quasi non s'accorse, degno premio della purezza dei suoi costumi. La cerimonia del battesimo questa volta fu modesta, un po' perché era nato un cadetto, il baroncino, un po' per un'altra ragione dispiacevole. Grattandosi un giorno sotto la nuca in mezzo alle spalle per un forte prurito, il principe aveva calcato le unghie fino a farsi un po' di sangue. Lì per lì non ci aveva badato, ma dopo qualche tempo gli si formò nel punto maltrattato una specie di bottone che crebbe fino a impacciarlo nei movimenti e ad impedirgli di star supino nel letto. Tutti attribuirono il fatto all'eccessivo grattamento. Non di meno, siccome l'incomodo non andava via, fu necessità chiamare un chirurgo. L'operazioncella durò più che non si credesse e il principe dovette restare molti giorni in casa. Pertanto il battesimo del baroncino di Felici fu celebrato senza pompa. Il sindaco Consalvo fece da compare. Da Augusta venne per assistere alla cerimonia Giovannino. Tutte le volte che veniva alla casa materna, egli aveva il viso più cotto, la barba più ispida, la pelle delle mani più dura. Su quella faccia d'arabo del deserto, il bianco degli occhi era però dolcissimo. Teresa ringraziava il Signore della saggezza che gli aveva ispirata, della salute che gli accordava. Però in cuor suo, ella domandava come mai quel giovane tanto elegante, così avido di piaceri, delle cose belle e ricche, aveva potuto rassegnarsi a far la dura vita di campagna, a vivere con una contadina, in mezzo ai contadini. Non era però lei stessa la causa di quella trasformazione. Ma subito, quasi a scagionarsi ai propri occhi, ella pensava: «Sono trasformata anch'io!» Dov'erano più, infatti, le sue ispirazioni poetiche, le sue alate fantasie? Aveva preso marito da 2 anni e già cominciava la terza gravidanza. Quando ella sognava di Giuliano Biancavilla, di Giovannino, pensava forse di divenire una macchina da far figliuoli. Ed ella dava guerra a quei pensieri che lo spirito della tentazione doveva certo suggerirle. Una bella sera d'estate, Teresa e la duchessa madre, lasciato in casa in custodia della cameriera il duchino e presa in carrozza la balia col figliuolo più piccolo, facevano la consueta passeggiata. La carrozza salì fino alla Madonna delle Grazie. Le padrone e la balia scesero, entrarono nell'angusta cappella e si inginocchiarono dinanzi all'altare. Teresa aveva chinato gli sguardi per evitare la vista del muro pieno di vuoti orribili, del carnaio che la disgustava ora come l'inorridiva da bambina. Ma fissando l'immagine della Vergine, le diceva tutta la sua gratitudine per le grazie di cui la colmava. Sentivasi tanto calma da un certo tempo, quasi felice. Ella distribuì tutto quel che aveva in tasca ai poveri e risalì in carrozza. La duchessa madre ordinò al cocchiere di andare a fermarsi al caffè di Sicilia. Lì, il cameriere non aveva ancora portato i gelati, che una voce alterata esclamò dietro la carrozza: «Teresa! Mamma!» Era il duca, irriconoscibile, con la camicia disfatta dal sudore, pallido come un morto. Volto al cocchiere, mentre esse domandavano sgomente: «Che c'è? Michele, che hai?» «Torna a casa», ordinava egli. «Torna subito!» E aprì lo sportello, salì e si gettò a sedere accanto alla balia. «Mio padre, il bambino!» esclamava Teresa afferrandogli una mano. Ma egli: «No, no!» E mentre i cavalli sferzati partivano traendo scintille dall'astricato, finalmente spiegò: «Giovannino, un telegramma del fattore, la perniciosa. Sono corso dal dottore, poi alla stazione. Vi ho cercato dappertutto. Partirò stanotte con un treno straordinario.» Nel primo momento Teresa provò quasi un senso di sollievo. Smarrita alla vista del marito, atterrita dalle sue oscure parole, aveva creduto alle più terribili catastrofi: la morte del padre, un'improvvisa minaccia per l'altro suo figlio. Assicurata che nessuno dei suoi era in pericolo, ella non attribuì molta gravità alla malattia del cognato. All'1 della notte, Michele e la duchessa partirono. Restata sola in casa, la sua fiducia cominciò a mancare e le notizie mancavano ancora. Veniva gente a chiederne, parenti, amici, ed ella non poteva darne. Il marchese Federico, scotendo il capo, riferì d'aver sentito dire che l'imprudente giovanotto era stato a dormire parecchie notti per le terre della Balata, nel fitto della malaria. «Ho paura che sia di quella buona. Sarebbe peggio di una schioppettata!» La principessa Graziella protestava. «Ma che? Le male nuove le porta il vento. Se gli hanno dato il chinino a tempo, non c'è pericolo!» Il duca tornò dopo una settimana. Suo fratello era entrato in convalescenza, ma quel giorno dell'arrivo lo avevano trovato boccheggiante. In un accesso di delirio aveva tentato buttarsi giù dal balcone e quattro uomini a stento erano riusciti a trattenerlo. Dopo un mese i dottori consigliarono di portarlo in montagna. Sua madre l'accompagnò alla Tardaria. Durante la loro assenza, che durò 3 mesi, Teresa partorì un altro maschietto. In novembre, il freddo non permettendo più di stare in mezzo ai boschi, la duchessa e il convalescente tornarono. Giovannino adesso era guarito del tutto. I colori della salute gli fiorivano in viso. La mente, però, era debole ancora. Solo Teresa pareva esercitare un'influenza pacificatrice sul suo spirito ammalato. Come per virtù di un senso più fine, perfetto, egli intendeva sempre tutto ciò che diceva Teresa, quasi leggesse le sue parole negli sguardi, nello stesso movimento delle labbra. E da poco a poco, per quel benefico influsso, egli migliorò, guarì, riprese le abitudini d'un tempo, ricominciò a vestirsi con cura, a prendere interesse alle cose che vedeva e udiva. Un giorno si fece radere la barba. Fu una specie di trasformazione come quelle che si vedono al teatro. Ringiovanì e in un momento il bel ragazzo d'un tempo riapparve. «Così va bene», disse con Salvo, che veniva spesso a trovarlo, quando le sue occupazioni sindacali lo lasciavano libero. Egli era adesso all'apogeo della popolarità. Non si sentiva parlare d'altro che della sua intelligenza, della sua accortezza, del gran bene che faceva al paese. Teresa e Giovannino, nei loro discorsi, parlavano sempre di lui e s'accordavano interamente nel giudicarlo. Quel suo disprezzo di tutto e di tutti li addolorava. Certo, era un segno di forza, ma alla lunga non avrebbe potuto nuocergli. Teresa specialmente credeva che la forza vera fosse più modesta, più riguardosa, più timida. Il cognato consentiva nei suoi giudizi, però scagionava con Salvo. Attribuiva quel che era di meno bello in lui al sistema politico. Ma i prelati che venivano a trovare la giovane duchessa le facevano anch'essi molti elogi del fratello. Scrollavano un poco il capo, veramente, a motivo dello scetticismo di lui, ma riconoscevano le sue buone qualità e, quando il fondo è buono, non bisogna disperare. La frequentazione di quegli ecclesiastici, l'ascolto che prestava loro, non facevano rinunziare Teresa alle sue idee in fatto di politica religiosa. Ma gli scherzi, i motteggi, le scettiche dichiarazioni del fratello, che diceva di concedere quelle cose per ottenere il ricambio a suo tempo, le facevano male. Una volta che ella gli rimproverò la mancanza di carattere, egli rispose sorridendo: «Mia cara, non la sai la storia di quello che vedeva una festuca negli occhi altrui e non la trave nei propri? Pensa un po' a ciò che hai fatto tu stessa». Erano soli. Ella chinò il capo. «Volevi sposar Giovannino ed hai preso Michele che non volevi. È vero, sì o no?» Ed era un atto gravissimo, il più grave di tutta la vita, quello che decide dell'esistenza. «Del resto non te ne faccio una colpa. Può darsi che sia stato meglio per te. Il povero Giovannino, dopo la malattia, non ha più la testa a posto». Ella rimase profondamente turbata. Le pareva che il cognato fosse ristabilito del tutto. Nulla faceva più sospettare che durasse lo squilibrio della sua mente. Ora, aspettando che egli rincasasse, provava quasi un senso di paura, come se veramente un pazzo stesse per venirle dinanzi. Ma vedendolo rientrare sereno, sorridente, con un cartoccio di dolci per i bambini, con una quantità di notiziole per lei, ella fu certa che con Salvo si ingannava, o almeno che esagerava sicuramente. «Sai», gli disse la prima volta che restò sola con lui, «i tuoi timori sono ingiustificati. Giovannino non ha nulla». Consalvo scosse il capo. Ma come Teresa insisteva, dimostrandogli che in casa il giovane non dava alcun sospetto, che con lei ragionava benissimo, egli si lasciò scappare con aria di galanteria: «Credo stia bene con te». Tutte le volte che Giovannino le stava vicino, ella tremava come dinanzi al testimonio ed al complice della propria colpa. Lo evitava, non lo guardava più in viso, smaniava quando egli teneva in braccio i nipotini, baciandoli lungamente, avidamente, quasi baciasse lei stessa, una parte della sua carne. «Che avete, Teresa?» le domandava egli, e l'imbarazzo, la freddezza di lei divenivano più grandi, poiché non le diceva più cognata, ma la chiamava per nome, ed ella stessa lo chiamava per nome, tanto la loro intimità s'era stretta. Michele, la suocera, cominciavano a notare anch'essi il mutato umore di lei e non sapevano a che attribuirlo, o lo mettevano in conto di un malessere indefinibile di cui ella lagnavasi. Se avessero saputo, se avessero scoperto! Quando giunse al parossismo, il suo terrore si risolse come una febbre e a poco, sforzandosi a ragionare, quetossi. Egli sarebbe andato via. Il tempo avrebbe ancora una volta spento il fuoco divampante a tratti nel suo cuore come gli incendi vulcanici. Un improvviso aggravamento del padre la aiutò a dimenticare. Il tumore, scomparso da un pezzo nel punto dove era passato il ferro del chirurgo, riappariva nuovamente tra le spalle, sotto la nuca. L'infermo, appena accortosi della nuova formazione maligna, ebbe un così formidabile accesso di furore impotente che lo spavento gelò le anime dei suoi. Ella corse, passò intere giornate al capezzale del disperato, sopportò pazientemente tutti gli scoppi del suo livore, alleviò le pene della madrigna. I dottori, al momento opportuno, s'apprestavano a tagliare, a bruciare. Anche questa volta l'infermo urlò che non voleva. «Vogliono ammazzarmi! Non sono dottori, sono macellai! Li pagate per ammazzarmi, per liberarvi di me!» E nel delirio, buttata via un tratto la maschera del zelante cattolico timorato da Dio, orribili, sconce bestemmie gli uscivano dalle labbra. La principessa si turava le orecchie, Teresa alzava gli occhi al cielo. I monsignori però affermavano: «Non è lui quello che parla, è il male, egli non sa ciò che dice». Ma scorgendo le vesti nere, l'infermo gridava: «E voi altri corvacci, che volete? Fiutate la carne umana, corvacci? Via di qua, via di qua!» La crisi finì con un pianto di rotto. Egli promise messe alle anime del purgatorio, ceri e lampade a tutte le madonne e a tutti i crocifissi. Chiese perdono ai suoi, scongiurando che non lo abbandonassero. Teresa, inginocchiata al suo capezzale, lo indusse a lasciarsi operare un'altra volta. Ella pensava: quanti dolori, quante miserie. Che valevano al padre le ricchezze, l'impero ai quali aveva tanto tenuto? Non avrebbe dato tutto per la salute, ed egli era condannato. Quell'operazione era quasi inutile, l'accesso sarebbe riapparso altrove. Allora, rapidamente, quasi i cavalli che la trascinavano la trasportassero indietro nel tempo, ella pensò alla badia, dove fanciulla s'era sentita opprimere, come a un sicuro rifugio, a un porto riparato dalle tempeste. Beata sì la zia monaca, che passava i suoi giorni tutti uguali, tra le preghiere e le semplici cure della santa casa, fuori dalla vista del male, al sicuro dalle tentazioni, dagli errori e dalle colpe. Ella pensava: perché ho avuto paura del monastero? Così vi fossi entrata per sempre. Suo marito le disse una volta: Giovannino mi inquieta. Torna ad essere turbato come dopo la malattia. Hai visto? Ella non aveva visto nulla. Stupivasi come non si fossero accorti ancora dello smarrimento suo proprio. Non parla, non ride. Pare che ricominci a tormentarlo qualche fissazione. Che possiamo fare? Che potevano fare? Un giorno a tavola Giovannino annunziò: parto per Augusta. Era la salvezza. Ella pensava che era la salvezza, mentre la duchessa e Michele esclamavano: un'altra volta, per prendere una recidiva, in questa stagione, di qui non ti lasceremo partire. Ella pensava che era la salvezza. E come Michele le domandò: è vero che non può partire? È un'imprudenza, rispose. Egli alzò lo sguardo su lei. Non si guardavano negli occhi da tanto tempo. Allora ella ebbe paura. Quegli occhi spalancati, fiammanti, terribili, gli occhi del folle, ripetevano a lei: «Volete dunque farmi impazzire?» E rimase, ma divenne un selvaggio. Ella s'accorse subito della pazzia, perché era rivolta contro di lei, la evitava, non le rivolgeva la parola. Quel giorno ella fu chiamata all'alba dalla principessa. Il principe Giacomo era agli estremi. Il sangue avvelenato incancreniva a poco tutto il suo corpo. La mattina prima, con grande stupore di tutti, egli aveva mandato a chiamare Consalvo. Voleva fare un ultimo tentativo per indurlo a prender moglie. La paura della iettatura cedeva dinanzi alla suprema necessità di assicurare la discendenza. Nella mente superstiziosa, indebolita ancor più dal male, il matrimonio del figlio era d'altronde l'unico mezzo di togliergli quel funesto potere. Ammogliato, stabilito in una casa propria, padrone di un assegno e della dote della moglie, non avrebbe avuto ragione di augurare corta vita al padre. Thank you. Consalvo venne subito, si informò premurosamente della sua salute, sedette al suo capezzale. Il principe disse: «T'ho fatto chiamare per dirti una cosa. È tempo che tu prenda moglie». «Pensi, Vostra Eccellenza, a guarire», esclamò Consalvo. «Poi si parlerà di questi negozi». «No», insisté il principe, «devi prender moglie ora». Non aggiunse: «perché io sto per morire». Consalvo frenò un moto di fastidio. «Ma santo Dio, che fretta ha mai Vostra Eccellenza? Neanche se io fossi una ragazza che invecchiando corresse il rischio di non trovar più partiti. Ho appena 29 anni, posso aspettare ancora, fare una buona scelta. Ai tempi di Vostra Eccellenza davano moglie ai ragazzi di 18 anni, ora le idee sono altre. Non dico che col sistema antico riuscissero cattivi mariti e padri, ma come si pensa oggi, come penso io, bisogna aver acquistato una larga esperienza, essere nella pienezza della vita prima di dar vita ad altri. Forse sbaglierò, ma a prender moglie ora, le assicuro che farei infelice la mia compagna e sarei infelice io stesso. Mi pentirei se ascoltassi Vostra Eccellenza. Vorrei farla contenta, se l'obbedienza al suo desiderio non portasse conseguenze troppo gravi a me e ad altri». Finché il figlio parlò, sfoggiando la sua eloquenza, il principe non disse una parola. Quando Consalvo andò via, egli s'afferrò al campanello, suonò disperatamente, e la principessa e le persone accorse lo trovarono in uno stato da fare spavento. Non si chetò se non prima che venne il notaro. E allora diseredò il figlio. Il duca in quei giorni aveva da fare. La 13ª legislatura era stata chiusa e i comizi convocati per il 26 maggio. Deciso a ritirarsi se lo avessero nominato senatore, egli ripresentavasi ancora una volta perché la nomina non voleva venire. Giulente, credutosi sul punto di ottenere il posto, tornava a battersi per lo zio. Nonostante le sue occupazioni, udite le notizie portategli dal notaro, il duca corse a palazzo. Ma il principe aveva dato ordine di non lasciare entrare anima viva. Andò allora in cerca di Consalvo. Udendo che lo zio lo chiamava, chiese permesso agli astanti e andò a riceverlo nel suo gabinetto. «Non sai che succede?» esclamò piano il duca con aria grave e inquieta. E gli riferì ogni cosa. «Ebbene», rispose Consalvo arricciandosi i baffi. «Come, ebbene? Ma va a gettarti ai suoi piedi, chiedigli perdono, arrenditi una buona volta!» «Io? Perché?» E con un sorriso ambiguo soggiunse: «Può togliermi quello che mi dà la legge? No? Faccia del resto ciò che gli piace». Lo zio restò a guardarlo interdetto, non comprendendo. Era dunque vero. Quell'Uzeda non somigliava a tutti gli altri. Quando gli altri litigavano, s'azzuffavano, passavano sopra a tutti gli scrupoli e a tutte le leggi pur di far quattrini, quello lì restava indifferente. Sorrideva, udendo che era diseredato. Il principe moriva a pezzo, tra bestemmie e preghiere, scoppi di furore e di pianto. Consalvo non diceva nulla. Pensava con paura a quel male terribile che un giorno avrebbe potuto rodere, distruggere il suo proprio corpo in quel momento pieno di vita. Era il sangue impoverito della vecchia razza che faceva dopo Ferdinando un'altra vittima precoce, poiché suo padre aveva appena 55 anni. Sarebbe anche egli morto prima del tempo, prima di conseguire il trionfo, ucciso da quei mali terribili che ammazzavano gli Uzeda giovani ancora. Suo padre avrebbe dato tutte le proprie ricchezze per vivere un anno, un mese, un giorno di più. Che avrebbe dato egli stesso perché nelle proprie vene scorresse il sangue vivido e sano di un popolano? Niente. Il sangue povero e corrotto della vecchia razza lo faceva quel che era. Consalvo Uzeda, principino di Mirabella oggi, domani principe di Francalanza. Ed in quel momento, sotto l'influenza di quei pensieri, di quel senso di paura, si giudicava quasi severamente per la lunga lotta sostenuta contro il padre. L'ostinazione, l'irremovibile durezza di cui aveva fatto mostra, non era un sintomo inquietante, la prova che anch'egli poteva un giorno smarrirsi come quegli altri. Anche resistendo alle imposizioni del padre, anche giudicandolo come meritava, non avrebbe egli potuto conservare una certa misura, rispettare le forme, salvar le apparenze. Perché quello scandalo? Non poteva fargli anzi torto. E adesso sentivasi quasi disposto a chieder perdono al morente, a mutar politica. recitavano le preghiere degli agonizzanti nella camera dell'infermo. Il principe rantolava. Dinanzi allo spettacolo della morte, il senso di paura ghiacciava nuovamente il cuore di Consalvo. Egli aveva pietà del padre, di tutti i suoi. Stravaganti, duri, prepotenti, maniaci. Erano forse responsabili delle loro brutte qualità. Tutto si paga. E anch'essi pagavano il gran nome, la vita fastosa, le più invidiate fortune. Lisa Natoli ha letto I Viceré di Federico De Roberto, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Lidia Riviello, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.